Chau, Moretina. Chau, chau, chau, Moretina bella, chau. E prima di partire un bacio ti voglio dar. Segura que yo retornaré. Chao, chao, chao, Moretina bella, chao. Que prima di partire un bacio ti voglio dar. Chao, chao, chao, Moretina bella, chao. Que prima di partire un bacio ti voglio dar. Mamma e un altro a mio papà, cinguanda l'amorosa e parto a far soldar, vestito di bersagliere, vestito di palla oscura, Marietta sta segura che io ritornaré. Ciao, ciao, ciao, Moretina bella, ciao, e prima di partire un bacio ti voglio dar. Ciao, ciao, ciao, Moretina bella, ciao, e prima di partire un bacio ti voglio dar.